Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, come vi hanno già ricordato i nostri GR24, si è da poco conclusa l'assemblea annuale di Confindustria, quella che si sarebbe dovuta tenere a fine maggio con la nomina e l'elezione. La prima assemblea del neo presidente Carlo Bonomi, spostata chiaramente per motivi Covid ad oggi, con un numero ridotto di persone e un grande distanziamento, presenti non solo il ministro dello sviluppo economico Patuanelli, come avviene sempre, ma anche il presidente del Consiglio Conte, che oltre che essere presente è anche intervenuto. Il suo intervento è terminato circa un quarto d'ora fa, e questo non è non avviene sempre. Spesso parla solo il ministro allo sviluppo economico dopo l'intervento del presidente Confindustria, invece in questo caso ci ha tenuto anche il presidente del Consiglio a rivolgersi alla platea degli industriali, presenti tantissimi altri ministri del governo, dal ministro agli interni Lamorgese a quello degli affari regionali Boccia, la presidente del Senato Casellati e tantissime altre autorità, il sindaco di Roma Raggi. Questo per quello che riguarda il ministro degli esteri anche Di Maio. Ne parleremo ampiamente nel giorno in cui comunque torneremo sull'approfondimento che avevamo anticipato ieri, e mi riferisco al settore tessile, abbigliamento. Vi è stato un passaggio anche del presidente Bonomi sul settore tessile come uno dei più colpiti in questo momento, nonostante il recupero dell'attività e nonostante lo stesso Bonomi si attenda, sulla base delle previsioni del Centro Studi Confindustria, un terzo trimestre con un recupero molto molto forte dell'attività produttiva, che però non dovrebbe essere sufficiente a riportarci chiaramente a livello pre-Covid. Ne parleremo appunto in apertura. Poi ripeto, è intervenuto anche il ministro Patuanelli e il presidente del Consiglio Conte. Due i passaggi che farei ascoltare invece adesso, perché poi avremo un'analisi nel corso del programma. Il primo riguarda il passaggio quasi iniziale del presidente Confindustria Bonomi sul Recovery Fund, in cui si è rivolto direttamente al presidente del Consiglio. Presidente, ancora pochi giorni fa lei ha detto: se sbaglio sull'utilizzo del Recovery Fund, mandatemi a casa. No, signor Presidente, non è così. Se si fallisce il compito che abbiamo di fronte nei pochi mesi ormai che ci separano dalla precisa definizione delle misure da presentare in Europa, non va a casa solo lei, andiamo a casa tutti. Perché in quel caso il danno per il Paese sarebbe immenso e lo pagheremmo tutti per anni a venire, semplicemente non ce lo possiamo permettere. Questa convinzione ha ispirato ogni nostra posizione nei mesi del Covid. È tempo di azione comune, oppure non sarà un'azione efficace. Devo dire, poi analizzeremo l'intervento del presidente Bonomi, del ministro Patuanelli, dicevo, e anche del ministro Patuanelli, e stavo guardando alcune agenzie, e del Presidente del Consiglio. Attenzione da questo punto di vista, perché non vi è stata nessuna tensione particolare. Qualcuno si aspettava anche un confronto più serrato. Vi è stata la richiesta di un dialogo. Devo dire ben accolta anche dal Presidente del Consiglio, che è stato disponibile a accogliere tutte le proposte che saranno arrivate. Vorrei far ascoltare però un altro passaggio dell'intervento del Presidente del Confindustria Bonomi, quando dice: aderire allo spirito dell'Unione Europea significa avere una visione. Lui ha citato molto il termine visione, non semplicemente iniziative economiche per aiutare alcuni settori, ma una visione complessiva di dove si vuole portare il Paese. E ha detto: attenzione, un conto sono le misure emergenziali durante il lockdown, altra cosa è diventare quello che ha chiamato il sussidistan. Aderire alle direttive europee significa ancora due cose. La prima è scegliere la via giusta per sostenere imprese e settori più colpiti. E ovviamente noi parliamo per l'industria. Nei mesi del lockdown il governo ha assunto misure di sostegno alla liquidità delle imprese e di rifinanziamento al fondo PMI, che sono state molto importanti e hanno funzionato molto bene. Ma i sussidi non sono per sempre. Né possiamo o vogliamo diventare un sussidistan, come è stato recentemente scritto. Già l'estate doveva essere un momento di altre scelte, scelte su cui indirizzare più incisivamente il futuro. E il futuro non può essere che letto in una chiave di filiere, possibilmente di dimensione europea, che disegnino una geografia molto più ampia delle singole imprese di settore. Su queste filiere dell'industria italiana occorre uno sforzo particolare. Ma voglio essere chiaro, non sono i sussidi né ulteriore indebitamento, sia pur con garanzia, quello che proponiamo. Serve tutt'altro. L'esempio è quanto avvenuto nell'emergenza pandemica. La struttura produttiva italiana non era pronta a maxi produzione di dispositivi sanitari, ma lo Stato e il Governo hanno creato le condizioni di incentivo tali da rendere possibile un balzo di quelle produzioni perché strategiche. Per le filiere che rischiano perdite a doppia cifra, gli strumenti dovrebbero essere analoghi. Non sussidi, ma condizioni regolatorie di mercato tali da tornare ad accrescere produzione e occupazione. E come dicevo, poi vi torneremo, andiamo con le altre notizie di carattere, come sempre in apertura, di carattere internazionale. Allora, la fiducia dei consumatori americani è salita a settembre sopra le attese, mentre per quello che riguarda il cosiddetto sentimento economico dell'area euro, che sarebbe un inglesismo, sentiment, diciamo quello che è la fiducia sul futuro dell'economia nell'area euro, ci sono stati aumenti anche a settembre. La cosa interessante, lo scrive oggi la Commissione Europea pubblicando l'indicatore ESI, che gli aumenti più significativi sul clima economico si sono registrati proprio in Italia, più 8,4 punti, in Francia più 5,8, poi più staccati i Paesi Bassi più 2 punti, la Spagna più 1,6 e la Germania più 1,2. Tra l'altro c'è anche un'elaborazione dei tre istituti di statistica, l'Istat, l'IFO e il COF, che è quello svizzero, l'Istat è chiaramente quello italiano, l'IFO è quello tedesco, in cui si stima una ripresa nel terzo trimestre del 2020 significativa dal punto di vista del PIL dopo il forte crollo tra aprile e giugno, più 8,2%. Il Tesoro ha assegnato oggi, veniamo all'Italia, in asta 7 miliardi di BTP a 5-10 anni con tassi in deciso calo. E il rendimento per i BTP a scadenza 2026 è dello 0,35% lordo, e invece 4 miliardi e mezzo di BTP a 10 anni con scadenza 2031 hanno avuto un rendimento dello 0,89%, anche in questo caso 22 punti in meno. E quindi insomma si accetta di avere per 10 anni un rendimento lordo dello 0,89%. Nel prestare i soldi all'Italia, questo è chiaramente, come spieghiamo ogni volta, l'effetto della politica del piano PIP della Banca Centrale Europea. I prezzi della produzione industriale sono in leggerissimo aumento su base mensile, ma sono ancora sotto del 3% rispetto ad agosto del 2019, visto che continuiamo a seguire in queste settimane i vari settori, segnalo che c'è anche il settore della cosmetica, citato anche questo nell'intervento del Presidente Bonomi, ma è un settore in cui continuano a sentirsi gli effetti del Covid. I fatturati hanno fatto meno 11,6%, meglio questo è la stima sull'intero 2020, con un valore globale di 10 miliardi e mezzo. Soprattutto è crollato l'export, meno 15%. Vanno male i canali classici della distribuzione, migliore invece lo shopping online con un più 35%, ma chiaramente non basta a riequilibrare, anche perché l'online, l'e-commerce è andato soprattutto su prodotti per igiene e bellezza. 70% degli italiani durante il lockdown hanno usato il canale dell'e-commerce. Nel frattempo prosegue l'aumento dei finanziamenti richiesti dalle banche al fondo di garanzia, cioè i famosi 30.000 euro, ma non solo, anche quelli fino a 5 milioni con il 90% di garanzia. 85 miliardi e mezzo per 1.116.000 domande, di cui la stragrande maggioranza, 910.000 domande, per i prestiti fino a 30.000 euro, che valgono però 18 miliardi. Gli altri 70 miliardi, un po' di meno, 68 miliardi, riguardano numericamente una fetta più bassa, ma come valore più alta, perché sono i prestiti che crescono appunto fino ai 5 milioni, cioè il 100% fino a 30.000 euro, il 100% fino a 800.000 euro, il 90% fino a 5 milioni. Allora, ancora la vicenda Tridico, per quanto io abbia già chiarito ieri che il punto, poi visto, insomma, non sono da solo in questo, ma il punto non è lo stipendio di Tridico né l'aumento, ripeto, lo stipendio era basso prima e anche con l'aumento è sotto molti dei suoi dirigenti ed è ampiamente sotto i 240.000 euro di tetto. Il problema era, a mio avviso, rinunciarvi in attesa di pagare anche l'ultima della cassa integrazione che resta da pagare, anche perché, come ha chiarito ieri il presidente del Consiglio di Sorveglianza dell'INPS, LOI, ai microfono di Simone Spezza, 24 mattina, sono 220.000 circa le casse integrazioni che devono essere ancora pagate, ma per un totale di quasi mezzo milione di persone. Questo è il vero punto, cioè se tu vali e riesci a svolgere un ottimo lavoro, secondo me puoi prendere anche più di 150.000 euro lordi. Il problema è per che cosa li prendi: per assumerti responsabilità o per, diciamo, non rispondere mai degli errori nel funzionamento. Allora, oggi il presidente del Consiglio Conte ha detto: seguo centinaia di dossier, ma su questo in dettaglio non ero informato. Comunque, dopo aver analizzato l'informativa, vale la pena ricordare che ancora oggi il presidente dell'INPS prende monumenti in linea o inferiori a istituzioni paragonabili. E poi però ha aggiunto Conte: attenzione, chiarito l'aspetto dello stipendio, il tema è che ci sono ancora migliaia di cittadini italiani che aspettano la cassa integrazione, Tridico lavori anche di notte. Il tema è che ci sono dei cittadini italiani che ancora aspettano la cassa integrazione. Su questo quindi il presidente dell'INPS, tutti i lavoratori dell'INPS e tutti coloro che hanno un ruolo, e io per primo, dobbiamo lavorare giorno e notte, perché basta anche un solo lavoratore che ha preso la cassa integrazione in deroga, ad esempio a maggio, ma non l'ha presa a giugno, luglio, agosto, settembre, è un problema, perché significa un lavoratore che non ha mezzi di sostentamento, una famiglia, la famiglia del lavoratore che non ha mezzi di sostentamento, ne basta uno. Quindi non ha senso dire in questo momento, vi sono molto franco, non ha senso dire milioni l'hanno preso ma ci sono ancora una parte residua, un numero contenuto. Quel numero contenuto sono vite, sono famiglie che devono mantenersi. Insomma, quindi io devo dire che in questo caso sono d'accordo con Conte. Non è tanto il problema dello stipendio di Tridico, che appunto è anche sotto il tetto massimo e prende meno del presidente dell'Istat, pur avendo un lavoro molto molto più importante, col massimo rispetto per l'Istat, oneroso e decine di milioni di pensioni che vengono pagate ogni mese. No, il problema è non minimizzare sempre, cosa che invece Tridico e l'INPS fanno, ma soprattutto Tridico, le casse integrazioni ancora non pagate, anche perché poi Conte ha ringraziato le imprese che hanno anticipato la cassa integrazione. Sappiamo che nei primi mesi si arrivava quasi al 70%, e non parlo di quella in deroga. Non aver ascoltato, non aver fatto presente al governo che la cassa integrazione in deroga in quel modo avrebbe creato problemi, ci sarebbe aspettato una presa di posizione più dura dal presidente dell'INPS. Cioè, torniamo al discorso, i soldi non sono tanti o pochi, i soldi sono tanti e pochi a seconda di come te li meriti e di quello che fai. Se sei solo un mero esecutore, allora forse sono troppi. Se invece hai la capacità di spiegare al governo che la cassa integrazione in deroga era una follia in quel caso, ma non per colpa di nessuno, per colpa di una struttura che non avrebbe retto la cassa integrazione in deroga, quella diciamo fino a un dipendente, e continuare a dire sono poche migliaia, no, sono 221.000 per circa mezzo milione di teste, e ha ragione Conte, mi sta scrivendo qualcuno che non ha ancora avuto quella di marzo e di aprile, per carità non posso fare i singoli casi, ma quello è il problema, non minimizzare e chiarire, soprattutto aggiungo su Tridico anche un'operazione di trasparenza, lasciate stare lo stipendio, è uno specchietto per l'allodole, che tra l'altro era specchietto per l'allodole anche ai tempi in cui c'era tutta sta battaglia sugli stipendi capeggiata dal Movimento 5 Stelle, non solo, quindi poi ti si ritorce contro, non è quello il problema, certo che deve avere un tetto agli stipendi, ma non è quello il problema è quanta trasparenza ci dà l'INPS, ci vuole spiegare perché si sono incagliate ancora molte pratiche per la cassa integrazione, quant'è l'ammontare complessivo, a quali mesi fanno riferimento, è giugno o è ancora qualcuno che aspetta quella di aprile, e via così, e, qua, e come intende diciamo sbrigare tutte le pratiche arretrate, questo è l'unico problema, e poi magari anche una posizione un po' più autonoma e non solo difensiva quando c'è da spiegare ai ministri che alcune iniziative possono essere controproducenti, ripeto, vedi la cassa integrazione in deroga. Allora, ancora due notizie sull'altro tema di cui ci siamo occupati ieri, l'ipotesi di una riforma del reddito di cittadinanza. Allora, il ministro Di Maio ha detto che appunto ha la paternità anche con Tridico e con l'ineffabile Parisi, che è scomparso dai radar anche dei navigator, il presidente dell'ANPAL, del reddito di cittadinanza. Ha detto Di Maio, stiamo attraversando un momento molto delicato, servirà lo sforzo di tutti, i comuni devono approvare i decreti per permettere l'impiego di chi percepisce il reddito, mentre ad oggi solo 8.000 su 400 lo hanno fatto. In questo ha ragione anche il ministro Di Maio nel dire attenzione, i comuni poi se non fanno i loro decreti comunali per avere, per utilizzare chi percepisce il reddito di cittadinanza mentre sta cercando un lavoro o sta cercando che gli venga offerto un lavoro, beh, è chiaro che poi i lavori socialmente utili non riesce a farli. Molto duro invece l'europarlamentare e fondatore di Azione Carlo Calenda, questa mattina ospite di Simone Spezia, chiaramente a 24 mattino, ha detto sostanzialmente era ovvio che sarebbe finito così se metti 3.000 persone, adesso sentite la definizione esatta, come i navigator che non hanno mai lavorato in vita loro. Come legge questo Giuseppe Conte che un po' vira, no, sul reddito di cittadinanza e propone dei correttivi? Ma intanto io la ritengo una cosa positiva. Giuseppe Conte 2 sta criticando tutti i provvedimenti di Giuseppe Conte 1, il che è da un lato ovviamente un'operazione di grande trasformismo, ma dall'altra anche va salutata positivamente. Ricordo che i risultati del reddito sono disastrosi, non solo per la mancanza di controlli, come era ovvio dall'inizio, ma anche per in realtà le assunzioni che a tempo indeterminato, ricordo, sono una percentuale risibile, ed è del tutto logico che il meccanismo non possa funzionare, no? Perché se lei mette 3.000 scappati di casa, cioè poveracci che non hanno mai lavorato, a trovare lavoro, tra l'altro con pochissima connessione con i sistemi regionali che funzionavano male, ma almeno funzionavano appunto sulle politiche attive, quello che succede, come ovvio, è che non trovano lavoro a nessuno. Allora, due notizie ancora, anzi una soprattutto, la Banca Popolare di Bari. Qui riguarda il crack Fusillo, che era una vicenda dentro l'intera gestione fallimentare della Banca Popolare di Bari da parte della famiglia, dico famiglia perché c'erano tutti dentro la famiglia Iacobini. Allora, la Guardia di Finanza di Bari ha arrestato, gli ha dato però i domiciliari, per concorso in bancarotta fraudolenta Gianluca Iacobini, l'ex condirettore generale della Banca Popolare di Bari, e ha notificato un provvedimento di interdizione per il padre Marco Iacobini, ex presidente da 20 anni della Popolare di Bari. Iacobini torna così in detenzione dopo poco più di 2 mesi, era stata revocata l'8 luglio infatti a lui e al padre la precedente misura cautelare nell'ambito del crack della Popolare di Bari stessa. Per quello che riguarda la gestione del gruppo Fusillo di Noci, allora si legge nell'ordinanza: sulla gestione della posizione finanziaria del gruppo Fusillo si sono consumate le peggiori nefandezze dell'istituto di credito. Aggiunge appunto nell'ordinanza, sono 6 oggi per le persone arrestate. Negli atti si parla di un ruolo di primo piano assunto dalla Popolare di Bari come ideatrice delle iniziative, mettendo a disposizione della società Veicolo la leva finanziaria per acquisire i cespiti oggetto di alienazione da parte della società del gruppo Fusillo, con mutui fondiari grazie ai quali si assicurava l'iscrizione di ipoteca in proprio favore. Insomma, il denominatore comune delle operazioni di portata illecita è la presenza costante della Banca Popolare di Bari in una veste che non è quella del comune partner bancario, che sostiene finanziariamente un proprio cliente storico, bensì evidenzia precise e gravi responsabilità a titolo di concorso negli illeciti commessi dagli amministratori delle società fallite. Praticamente il valore economico dei beni delle società del gruppo Fusillo di Noci, distratti o dissipati tra il 2016 e il 2019, è stimato in 93 milioni di euro, con 4 operazioni che hanno poi incriminate, che hanno portato all'arresto. Nel frattempo il business plan messo a punto da Medio Credito Centrale per la Banca Popolare di Bari, lo ha dichiarato lo stesso numero uno Bernardo Mattarella, prevede il taglio del 28% delle filiali e del 30% dei dipendenti, e devono ringraziare i dipendenti la famiglia Iacobini. ...349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Andiamo adesso sul meteo. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da... Columbia Thread Needle Investments, il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Dunque, arriveremo di nuovo all'analisi anche politica dell'intervento del presidente Bonomi e del presidente del Consiglio Conte, però adesso, per restare proprio sulla concretezza, continua il viaggio nei settori. Qualcuno mi sta scrivendo sul settore turismo, l'abbiamo fatto la settimana scorsa, figuratevi se vi dimentico del settore del turismo, alberghiero in primo luogo. Però oggi si è tenuta qui a Sole 24 Ore, in diretta streaming, anche se vi erano anche presenze fisiche, l'Italian, la prima delle 2 giorni dell'Italian Energy Summit, su come tra l'altro dovrebbe essere gestita l'opportunità che si presenta con il Recovery Fund. La nostra Anna Marino ha interrogato il presidente di Confindustria Energia Giuseppe Ricci. Prima ancora che arrivare è importante definire i progetti che siano concreti e immediatamente realizzabili. E una volta definiti questi interventi, il Recovery Fund potrà dare un aiuto per accelerarne la realizzazione. i tempistiche, sappiamo che l'Europa dovrebbe approvarli nella prima metà dell'anno prossimo, ma la cosa più importante adesso è proprio quella di fare un sistema tra le istituzioni e le aziende per poter presentare dei progetti che siano di filiera e siano concreti e realizzabili. Quali progetti e che modo si possono aiutare le aziende? Nella filiera energetica ci sono tantissimi progetti. Noi come Confindustria Energia abbiamo già pubblicizzato il piano infrastrutturale da qui al 2030 necessario per raggiungere gli obiettivi del PNIEC, obiettivi che potrebbero anche subire un'ulteriore accelerazione o accentuazione proprio come dice la Presidenza della Commissione Europea von der Leyen. Che cosa dovrebbe fare il governo per agevolare anche questo settore? Beh, sicuramente due cose. Una è quella dell'iter autorizzativo. Il decreto semplificazioni ha portato qualche leggero miglioramento, ma è assolutamente insufficiente. È necessario continuare a insistere. Gli iter autorizzativi devono essere semplici, devono essere lineari e deve esserci una forte responsabilizzazione di tutti i soggetti affinché i tempi vengano mantenuti certi. L'altro elemento importante è che introducendo un nuovo modello energetico, introducendo anche nuovi sistemi come appunto l'idrogeno o il network della CO2, cattura, riutilizzo, stoccaggio eccetera, sarà necessario poi un sistema regolatorio così come c'è per il gas e l'energia. E invece sulle prospettive, sulla sostenibilità futura del settore oil and gas e anche sulle trasformazioni che deve fare, perché non è un mistero per nessuno che proprio il piano Next Generation EU, quello che tutti chiamiamo Recovery Fund, abbia nel verde e nella transizione, diciamo, verso l'economia circolare, sostenibile e più possibile green, uno dei tre pilastri. Dicevo, su questo la nostra Anna Marino ha chiesto al numero uno di Eni, Claudio Descalzi, quali saranno le tempistiche necessarie. Fiduciosi, positivi, e diciamo che deve arrivare perché abbiamo tutti bisogno in Italia e in Europa di un'iniezione importante di fiducia, quindi di investimenti, di occupazione e soprattutto di attività imprenditoriali che si sviluppano e creano le basi per il futuro. Chiaramente il Recovery Fund ha degli obiettivi precisi che sono legati all'ambiente, alla decarbonizzazione, a una sostenibilità che riguarda la parte economica ma anche la parte sociale, quindi si richiama a tutti quelli che sono gli SDGs della UN, delle Nazioni Unite. Ovviamente deve arrivare velocissimo. Bisogna essere pragmatici, i se devono essere distrutti da un'azione pragmatica, da una scelta veloce e soprattutto basarsi su progetti maturi che diano una ricaduta non solo nel presente ma che possano dare anche prospettive per il futuro. La tempistica quale dovrebbe essere per essere utile appunto? Beh, la tempistica come dovrebbe essere adesso è quella di riuscire a fare una selezione all'interno dell'Italia, presentarla entro fine anno all'Europa, poi l'Europa deve fare una selezione e decidere quali sono i pacchetti di investimenti che potranno andare avanti. Vuol dire riuscire a fare qualcosa e ottenere questi finanziamenti nel primo quarto, nel secondo quarto del 2021. E nel frattempo che cosa si fa? Nel senso, lo stato dell'arte attuale? Avete progetti in corso anche voi? Beh, noi comunque andiamo avanti. È chiaro che i nostri progetti, che sono stati quelli che sono stati presentati durante questi mesi, anche durante la nostra presentazione delle nostre strategie a fine febbraio, sono progetti maturi, sono progetti nel caso dei biocarburanti che hanno già avuto investimenti negli ultimi 6 anni. Così appunto il numero dell'Eni, Claudio Descalzi, anche lui sul recovery. Giro sostanzialmente la stessa riflessione, visto che dal settore energia, oil and gas, passiamo al settore tessile, moda e abbigliamento. Perché? Perché ieri si è conclusa la settimana della moda donna uomo per la primavera estate a Milano, iniziata martedì 22 settembre, 64 eventi, di cui 23 in presenza fisica e 41 in digitale. Con un po' di rosicamento francese, abbiamo visto un articolo, a mio avviso, un po' ingeneroso, se non ricordo male, delle Figaro, in cui veniva criticata, il flop di Milano. In realtà almeno Milano ci ha provato, vedremo cosa saprà fare Parigi, a cui auguro ogni fortuna, visto il numero altissimo di casi e di contagi. Però il problema vero è che qui c'è un calo del fatturato nell'abbigliamento tessile moda superiore al 20%, lo stima la stessa Confindustria Moda, solo il 10% di un campione intervistato è riuscito a contenere le perdite entro il 20%. La media è del meno 39%. Questo per quello che riguarda i primi due trimestri. È chiaro che possiamo immaginare una ripresa, anche se il presidente del Confindustria Moda, Cirillo Marcolin, che avremo ospite in un'altra occasione perché adesso è impegnato all'assemblea, ha parlato di catastrofe economica senza precedenti. La federazione rappresenta 64.300 imprese per un fatturato di quasi 100 miliardi di euro e 575.000 addetti. Solo il 4% ha avuto commesse invariate in crescita, il 5% ha contenuto il calo entro il 10%, il 10% lo ha contenuto sul 20% e il resto ha addirittura subito crolli che per un quinto del campione sono stati superiori al 70%. Se la flessione media annua è prevista del 32% sul 2019, vuol dire che mancheranno l'appello 30 miliardi di fatturato, più di una manovra finanziaria. Claudio Marenzi, che è stato fino a pochissimo fa il presidente di Confindustria Moda, e appunto ceduto il testimone a Cirillo Marcolin, buonasera. Buonasera. Attualmente lei è presidente di PT Uomo e tra l'altro ricordo il numero uno di Erno, che per chi non lo conoscesse è un marchio molto importante nel mondo dell'abbigliamento. Senta, Marenzi, collegandomi a quello che poi è il filo rosso di tutta la puntata oggi, cioè l'intervento del presidente Bonomi e la replica, l'intervento successivo del presidente del Consiglio Conte. Insomma, Bonomi ha detto: attenzione, per favore, abbiamo un'opportunità unica, concentrare le risorse sul 4.0, sulla parte competitiva del paese, non disperdetele, no ai sussidi. Ora, io ho spesso definito il vostro settore come, ahimè, una sorpresa negativa, cioè tutti ci concentravamo sul turismo, parlo di maggio, e aprile e giugno, sui danni per il turismo, per il settore alberghiero, per il settore che ruota attorno al turismo, dai taxi al catering, agli eventi e quant'altro, e ristoranti ovviamente, e invece abbiamo scoperto che in maniera quasi indiretta, nel senso che i negozi sono aperti, il vostro settore sta soffrendo tanto quanto quelli che ci sembravano palesemente più critici a partire dal turismo. Sì, questo è vero, noi da subito abbiamo detto che il nostro sarebbe stato uno dei settori più colpiti, anche perché siamo molto legati al turismo e il turismo è legato a noi. Basta pensare a Milano, sicuramente Milano vive di un turismo di shopping molto più che un turismo legato alla città stessa, business e shopping. Mancando il turismo da questo punto di vista, sappiamo come in questo momento è Milano, per cui in più noi siamo stagionali, per cui un danno in termini di tempo come è stato quello appunto del nostro lockdown non lo recuperi più. Non solo non si recupera, ma si ripercuote sulla stagione successiva, per cui non vendi questa primavera, non vendi neanche nella prossima perché hai delle rimanenze. Devi smaltire il magazzino. Esatto. Senta, resti con noi Marenzi, perché io vorrei capire un'altra cosa, però l'ho chiesto anche la settimana scorsa a Stefano Beraldo, che è numero uno di OVS, quindi su un fronte ancora più, diciamo, del casual e di negozi di fascia media per una popolazione che non vuole spendere molto. Lo chiedo a lei che invece ha rappresentato, comunque rappresenta la moda intesa come moda italiana. La mia sensazione è che al di là del danno che è stato creato dai turisti stranieri mancanti, chiaramente, vi sia stato un danno all'inizio non così stimabile, proprio non dovuto al lockdown, ma dovuto a quello che è successo dopo, e cioè il proseguire dello smart working. Ancora vediamo che sono il 50% dei dipendenti pubblici almeno in smart working. E anche nel mondo del privato sta cambiando le abitudini. Lo dico perché se questo dovesse essere poi un elemento strutturale, lì è quasi un cambiamento culturale. Non è più semplicemente dire: ho i negozi chiusi, non posso andare a fare acquisti, ma appena tornerò a fare la vita di prima, tornerò, diciamo, possibilmente, se non è cambiato il mio potere d'acquisto, a comprare abbigliamento come prima. Vorrei capire se voi state riflettendo anche su una modifica, come si chiama in gergo, strutturale, non solo dovuta alla chiusura, anche perché appunto i negozi sono aperti, ma noi stessi vediamo molte, molte minori motivi per andare a fare acquisti, appunto dagli appuntamenti di lavoro che sono rarefatti, alle occasioni mondane che sono rarefatte, agli eventi che possono essere, vanno dai matrimoni alle feste, a qualunque altra presentazione. Insomma, vorrei capire se non temete un diventare strutturale di un fenomeno che in questo momento era nato come fenomeno contingente, dopo il traffico. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presento. Promo 24. Piemonte bellezza singolare. Scopri i borghi storici e siti UNESCO con le residenze barocche. Piemonte libertà singolare. Immergiti in panorami unici. Esplora le 96 aree naturali protette. Scegli il tuo itinerario sui 20.000 km di percorsi a piedi o in bici. Piemonte gusto singolare. Assapora l'autunno col tartufo bianco d'Alba e i grandi vini di 18.000 cantine. Piemonte spirito singolare. Vivi i percorsi dell'anima, i sacri monti, la via Francigena e le sinagoghe. Il Piemonte che non ti aspetti, scoprilo su visitpiemonte.com. Focus Economia. Dunque, 17:50 minuti, qualcuno mi dice: eviti di augurare le fortune ai francesi. Guardate che esiste anche l'ironia nel mio augurio, su, per favore. Comunque, altri vogliono un commento politico, parlano di schiaffi del Presidente del Consiglio Bonomi nei confronti del Presidente del Consiglio. Guardi, non le do il mio commento adesso, lo darò fra un attimo, però c'è un'agenzia appena battuta, il Presidente del Confindustria Carlo Bonomi, che ha detto oggi: sono stato molto chiaro nel dire che possiamo mettere in campo tutte le misure e gli strumenti che vogliamo, ma mai non si traducono in beneficio per l'economia se non si ha una visione del paese. E oggi ho registrato un'apertura negli interventi da parte del ministro Patuanelli e del premier Conte, un'apertura su questi temi, un'apertura molto forte che non avevamo registrato fino ad oggi. È il segno che la strada che indichiamo da mesi era quella corretta. Quindi nessuno scontro, e non posso inventarmi uno scontro che non c'è stato, abbia pazienza, tra Bonomi e Conte. C'erano state posizioni molto diverse, anche molto critiche da parte della Confindustria nei mesi scorsi, con risposte altrettanto, diciamo, serrate da parte del Presidente del Consiglio, ma oggi mi sembra che non sia andata così. Cosa vuole, che cerchi il sangue anche quando non c'è? Ma Renzi, invece, per rispondere all'ultima domanda, quanto temete che, perché un conto sono le iniziative che può fare il governo, il 4.0, e io spero anche mirando poche iniziative con tanti soldi e spesi bene, però o dare qualcosa o cercare di rimodulare per esempio la tassazione sul potere d'acquisto, però quanto temete che sia un cambio che poi potrebbe diventare strutturale? Diciamo che questo sono dei punti di riflessione che ovviamente si fanno, più ognuno in casa propria e ovviamente ragionandoci insieme. Bisogna capire cosa rimarrà di questo, cioè cosa rimarrà strutturale di questo periodo. A mio avviso e la mia opinione, anche se poi di molti, è che rimarrà molto meno di quello che noi pensiamo adesso. L'importante non è proiettare il nostro pensiero di oggi a quello di domani, cioè di un periodo dove ci sarà un vaccino, dove si tornerà alla normalità. Chiaro, qualcosa rimarrà un utilizzo, credo, parsimonioso dello smart working. Sicuramente ci potrà essere che tutta una serie di appuntamenti di lavoro si facciano più digitali che fisici, ma l'uomo è un animale sociale, per cui penso che si tornerà comunque a una normalità. È chiaro che questo è uno spunto per capire, perché poi insomma, questi sono cambiamenti epocali che cambiano radicalmente i punti di vista, per cui ci si ragiona. Devo dire che quello che abbiamo subito noi, come tutti gli altri, è un azzeramento della domanda. Sì. Per cui quello che noi stiamo diciamo così, vivendo è una un'offerta e per cui tutta la macchina produttiva e per cui tutta la parte di operation così che funziona con una difficoltà di allocamento del prodotto. E qui ci si inventa un po' bisogna inventarsi. Devo dire che quello sul discorso che appunto faceva lei adesso sulla tassazione, per esempio, e sull'IVA sarebbe una cosa fondamentale. Credo che come in altri paesi, legacy Germania e soprattutto in Giappone, una riduzione temporanea di IVA per aiutare il consumo sarebbe importante. Senta, mi dica solo una cosa al volo, Marenzi, come vanno invece l'export? Perché sappiamo che gli Stati Uniti, lo ricordava anche oggi Bonomi, ancora non ci siamo e ci mancherebbe, però veniva citato qualche segnale di risveglio in Asia, in Cina, in Giappone? L'export in Asia in generale è ripartita, sia Cina, Giappone e anche Corea, ma soprattutto Cina e Giappone. In Europa le cose funzionano abbastanza bene, soprattutto in Germania, meno ovviamente in Francia e in Spagna, anche in Russia, anche perché i russi non si muovono, per cui spendono in loco. Questa è un'altra cosa, questo sarà un cambio epocale. Certo. Ci sarà più un consumo locale, per cui per quanto riguarda la moda anche una rivisitazione completa delle collezioni e delle proposte di collezione nei vari paesi. Le Stati Uniti in questo momento sono un grande punto interrogativo, perché sono forse il mercato più in crisi. Lo resteranno, a mio avviso, almeno fino alle presidenziali. Rispondo a un ascoltatore, a me non ne frega nulla di come sarà la moda post-Covid, qualcuno forse ha capito male, non mi interessa se andremo meno in giacca e più con la mimetica, fatti tuoi. Il problema è se continueremo a comprare abbigliamento oppure no, poi se cambierà la moda, questa è nelle cose, nel senso no, la moda cambia per definizione. Altra cosa è se io riterrò meno importante dover fare acquisti di abbigliamento o calzaturiero perché avrò meno occasioni di contatto fisico, dicendola tutta, e sappiamo tutti che stando via Skype o Zoom o quello che volete al computer, non avendo un evento pubblico che sia un evento privato che sia uno, contingentando i battesimi, i matrimoni e tutto quanto, è difficile in questo momento che vi sia la stessa spinta. Poi quello che sarà la moda, gonna lunga come nei periodi di recessione, famosa teoria britannica, teoria anglosassone, le gonne si accorciano quando l'economia è in espansione e si allungano quando è in recessione, da cui deriva anche la lipstick theory, non lo so, vedremo, di solito è sempre successo così. Grazie intanto, e le do un altro spunto, Marenzi, questa non la sapeva forse. Grazie intanto anche all'ex presidente di Confindustria Moda e presidente del Pitti. Andiamo sul GR24 e poi altri passaggi dell'intervento del presidente Bonomi e soprattutto i passaggi dell'intervento del presidente del Consiglio Conte. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Io guardo avanti, per questo ho scelto Unipol Sai anche per l'assicurazione salute. Con l'app prenoti subito la tua visita specialistica evitando lunghe attese. Unipol Sai, sempre un passo avanti. Prima di sottoscrivere, leggere il set informativo su unipolsai.it. Dai una svolta alla tua carriera! Partecipa all'Executive MBA. Iscriviti al MIB Trieste School of Management. www.emba.it. Fallo davvero! La differenza tra un cibo ordinario e uno di qualità? Io non la sapevo, ma lei la riconosce subito. Nina, è pronto! Per il benessere dei tuoi animali, affidati agli specialisti numero uno in Italia. Vieni da Arcaplanet, fino al 4 ottobre hai il 3x2 su Gourmet Diamant lattina gatto da 85 grammi e fino al 40% sui tiragraffi. Qualunque sia la tua storia, Arcaplanet è il tuo store. Arcaplanet, Pet Store, Pet Stories. Trova il software gestionale perfetto per la mia azienda. La tua destinazione è Business Cube di NTS Informatica. Ma dove lo trovo? Vai su ntsinformatica.it. Dove trovi NTS? C'è business. Da 60 anni siamo in continuo movimento. L'abbiamo imparato dal mare. Ed è così che ogni anno portiamo a Genova l'eccellenza della nautica internazionale. Il 60° Salone Nautico è dall'1 al 6 ottobre. Acquista i biglietti su salonenautico.com. Vorrei acquistare un veicolo commerciale ibrido, ma non so quale scegliere. Tu che dici? Ford Transit o Ford Transit? Scegli l'unico veicolo commerciale ibrido diesel, Ford Transit Hybrid. Hai fino a 12.000 euro di vantaggi grazie agli eco-incentivi Ford. Tuo a 220 euro al mese, anticipo zero, IVA esclusa. TAN 349, TAEG 456. Veicoli commerciali Ford, da sempre a fianco di chi lavora. Noi di Banca IFIS ti supportiamo per far crescere il tuo business e per farlo bene ti siamo sempre vicini. Banca IFIS, il valore di crescere insieme. State ascoltando un programma offerto da Columbia Threadneedle Investments. Il vostro successo è la nostra priorità. Focus Economia. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo all'intervento del Presidente Bonomi, del Presidente Conte e del Ministro Patuanelli. Voglio però rispondere brevemente a un ascoltatore che mi scrive a proposito dei modelli che resteranno post-Covid. Non è che ci dobbiamo chiedere se il modello economico che abbiamo vissuto pre-Covid non esisterà più, e piuttosto che ostinarci a cercare di ripristinare lo status quo si debba piuttosto puntare a un modello diverso, magari con meno Milano e più Italia. Guardi, magari faremo anche una puntata un giorno su questo, quando non saremo, diciamo, assediati dall'attualità. Le faccio notare due cose. La prima: il modello economico non è saltato o andato in crisi come nel 2008 o nel 29 per un problema interno al modello economico e finanziario stesso, per una patologia interna. E il modello economico, se voi guardate com'era partito il 2020, stava tutto sommato girando anche in questo paese. Sì, la crescita non era granché, ma insomma non c'erano delle tensioni come fu la crisi finanziaria del 2008 e l'assunzione di rischi assurdi e criminali da parte della finanza anglosassone deviata e derivata. Qui il modello stava girando, non era un motore in surriscaldamento, quindi non capisco perché si debba rimettere in discussione il modello economico. Parliamo dell'Italia, se poi parliamo del modello cinese, un'altra storia. E poi con meno Milano e più Italia, sa che non so cosa vuole dire. Cioè, se c'è in un paese, una città, io spero che ve ne sia più di una, che fa da traino, non è un corpo da vivere come un corpo estraneo, è da prendere casomai come un modello, magari agganciando alcuni vagoni che aveva fatto partire. Insomma, non è una contrapposizione meno Milano e più Italia. Cosa vuol dire più Italia? Milano è in Italia, l'indotto milanese riguardava la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, cioè c'è un tessuto, quelle che noi chiamiamo reti di impresa o distretti allargati, dislarghi, che non si limita a Milano, va da Torino, diciamo, a Bologna, da Firenze ad Ancona, insomma, cioè, prende tutto il centro nord come modello di distretti. Ce ne sono anche in realtà importanti al sud, per cui attenzione, cioè, avere un atteggiamento da palingenesi, come se questo virus fosse un virus economico ed era invece un virus che si è diffuso in Cina, gestito in maniera pessima dalle autorità cinesi, che mai hanno messo in guardia come avrebbero dovuto e hanno creato una pandemia senza precedenti in questa gestione, grazie anche a questa gestione. Ora, dare la colpa al modello economico italiano, al modello Milano, se lei ne ha uno alternativo, bene, però attenzione che qua io vorrei sentire, sono scomparsi tutti i teorici della decrescita felice, perché qua la decrescita c'è, e c'è, anche se oggi Conte ha detto non una doppia cifra, di felicità ne vedo gran poca in giro però. Comunque ringrazio invece Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore, che ci ha raggiunto qui in studio. Buonasera Alberto. Buonasera a tutti. A distanza, diciamo, Covid, oltre 2 metri. Bonomi, abbiamo fatto sentire 2 passaggi, diciamo, che faranno a mio avviso titolo domani, e quindi il fallimento del recovery non manderà a casa solo il Presidente del Consiglio ma tutto il Paese. E poi attenzione, i sussidi non possono andare avanti per sempre, non possiamo diventare il sussidistan. E adesso invece altri 2 passaggi. Ha chiesto il Presidente di Confindustria nel suo primo intervento in Assemblea evitare l'ambiguità nella politica economica perché crea sfiducia, e ha citato più volte il tema della visione e quindi della rotta per gli interventi di carattere economico. La prima lezione del passato è che nelle fasi di gravi perdita di reddito e lavoro non debbono essere le ambiguità della politica economica ad aggiungere ulteriore sfiducia al Paese. Nessun provvedimento di politica economica, nessuna misura istituzionale, nessun capitolo di spesa genera effetti positivi, rilevanti e durevoli senza la strategia in cui si iscrivono venga compresa e validata dagli agenti economici. Non basteranno risorse ingenti né disposizioni di legge se questo passaggio logico non sarà compreso e condiviso in tutte le sue implicazioni. Lo stiamo già sperimentando. Senza una prospettiva di credibile sviluppo, il reddito anche emergenziale non si trasforma in spesa, ma viene trattenuto sotto forma di liquidità. La disoccupazione aumenta nonostante le misure eccezionali introdotte, gli investimenti vengono rimandati. Se l'incertezza economica connessa con la pandemia si salda con aspettative poco convincenti sul corso della politica economica, gli attori rimandano le decisioni e il meccanismo della prosperità rischia di incepparsi. Ripeto qui, signor Presidente, quanto ebbe a dire 2 mesi fa all'inizio del mio intervento agli Stati Generali. Il compito che vi spetta è immane. Nessuno può sottovalutarne le difficoltà. A maggior ragione in un'Italia reduce da 25 anni di bassa crescita e bassissima produttività. Ma proprio per questo serve definire un quadro netto e chiaro di poche decise priorità su cui orientare la crescita del Paese, strumenti e fini della sua politica industriale ed economica. Serve una rotta chiara per dare significato complessivo alle misure e per tracciare la rotta serve un approdo. Allora, commentiamo rapidamente, Alberto, questo primo passaggio, poi farò sentire altri due passaggi che riguardano l'industria, ripristinare l'industria, gli incentivi dell'industria 4.0 e la proposta, diciamo, dal punto di vista, chiamiamolo così, fiscale, avanzata da Bonomi. Però, insomma, anche perché vorrei commentare quelle che poi sono state le varie dichiarazioni, perché Bonomi ha detto al termine dell'intervento anche di Conte, dal ministro Patuanelli, dal premier Conte è arrivata un'apertura molto forte che non avevamo registrato fino ad oggi. Il ministro dell'economia Gualtieri, presente, ha detto una giornata positiva, un clima positivo, ho apprezzato la relazione di Bonomi e l'impostazione positiva per uno sforzo comune per il rilancio del paese. Mi sembra, insomma, la richiesta è molto chiara, visione e quindi concentrare le risorse con un piano per il paese, non solo sussidi per tenere in vita il paziente ma dargli una prospettiva di vita. Però politicamente non vi è stato nessun attrito, mentre nel passato, nei mesi scorsi, sappiamo che la critica di Confindustria era stata anche netta alle iniziative del governo e anche alla risposta del governo stesso. Sì, da un punto di vista politico effettivamente questa è la notizia. C'è una giusta rivendicazione dell'orgoglio industriale da parte di Bonomi, lo ha detto, la ripresina è tutto merito della manifattura italiana che riesce a fare ancora un surplus incredibile sulla bilancia commerciale con l'estero. E quindi ha rivendicato questo merito forte da parte dei suoi della constituency che rappresenta, naturalmente. Ha anche posto al centro quel tema di cui al passaggio precedente di quanto sia importante che l'ascolto da parte del governo di quello che l'industria riesce a portare innanzi come istanze fondamentali della sua richiesta di politica economica. E questa cosa oggi ha avuto, come posso dire, una rappresentazione plastica. Che era la critica principale che veniva fatta, cioè il governo non ascolta, esatto, le categorie produttive e insomma fa grandi incontri, eventi, d'ora panfili, ma poi senza portare a cadute e a conclusione. Esattamente, invece oggi plasticamente è venuta fuori questa comunità di intenti, diciamo così, nel portare avanti un progetto paese che abbia grandi ambizioni, che sappia guardare lontano, che possa anche prendere delle rotte volando anche controcorrente, controvento, come si diceva, proprio come fanno gli aerei. Questa è la cosa principale. Sicuramente c'è una condivisione di obiettivi di lunga gittata, pur mantenendo una forte rivendicazione della capacità di critica e della volontà di essere critici, anche se in una logica costruttiva, naturalmente. Allora, ascolteremo questo dopo il traffico, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presento Focus Economia. I dati confermano che nella drammatica caduta di PIL e reddito l'industria e la manifattura pesano meno della discesa portata da servizi, consumi e domanda interna. Rispetto al 2009 le imprese industriali italiane sono entrate nella crisi Covid con maggior patrimonio, meno debiti finanziari e una quota di export nazionale del 26% superiore a quella del 2009. Il record dell'export lo abbiamo fatto noi l'anno scorso, con 455 miliardi di esportazioni ed un contributo netto alla bilancia dei pagamenti di oltre 100 miliardi. La ripresa italiana del 2015-2017 l'abbiamo fatta noi. E se essa è stata modesta, per attenuarsi nel 2018 e spegnersi nel 2019, si deve non solo ai colpi portati al commercio internazionale dal ritorno del protezionismo, ma al fatto che in Italia sono stati commessi alcuni errori, come l'abbandono di Industria 4.0, che per inciso aveva dato anche ottimi frutti sul versante occupazionale. Mi sono chiesto innumerevoli volte come potesse giustificarsi la scelta di accantonare Industria 4.0. E non sto qui a elencare le nostre dettagliate proposte per riprendere, rilanciare e rendere strutturale negli anni a venire l'intero complesso di incentivi 4.0 e dei crediti fiscali per la ricerca e lo sviluppo. A proposito di visione, faccio un ultimo esempio che riguarda il fisco. Non conosciamo il dettaglio degli interventi a cui il Governo sta lavorando. Abbiamo letto di misure allo studio che riguardano l'IRPEF, un taglio delle detrazioni, un cosiddetto intervento sul cuneo fiscale, che non riguarda però la quota a carico delle imprese. Infine, un ulteriore intervento che dovrebbe essere il passaggio per quasi 5 milioni di autonomi alla tassazione mensile per cassa, presentato come una grande semplificazione. Perché passare alla tassazione diretta mensile solo per i 5 milioni di autonomi? Facciamo lo stesso per tutti i lavoratori dipendenti, sollevando finalmente le imprese dall'onere ingrato di continuare a svolgere la funzione di sostituto d'imposta addetto alla raccolta del gettito erariale e di essere esposte alle connesse responsabilità. E quest'ultimo passaggio è quello che ha incontrato più resistenze, penso per esempio ad alcune reazioni dei sindacati. Il ministro Patuanelli, Alberto Rioli, ha detto ci sono timidi segnali di ripresa e ha confermato quanto il Premier Conte aveva detto stamattina ma in un'altra occasione, e cioè che il PIL dovrebbe essere, il crollo del PIL italiano dovrebbe essere sotto la doppia cifra, cioè non al 10 ma al 9%. E sempre Patuanelli ha detto anche la nostra strategia per le imprese inizia dalla stabilizzazione pluriennale e potenziamento di misure che consideriamo strategiche a partire dagli incentivi 4.0, incrementando l'intensità. E tra l'altro questo è stato il passaggio in cui il ministro è stato interrotto 8 volte dagli applausi perché ha annunciato un piano straordinario di formazione 4.0, a dimostrazione che poi non è che ci sia tanta retorica, qui ci sono anche c'è la necessità di risposte molto concrete, Alberto. No, esatto, c'è la necessità di uscire dalla stagione degli opposti ideologismi, perché la critica che faceva oggi Bonovi intreccia il Conte 1 e il Conte 2, certo. Perché la prima azione di Di Maio, ministro dello sviluppo, fu quella di abbandonare il 4.0 di Calenda. Lo ricordiamo bene, anche l'alternanza scuola-lavoro. Tutto venne abbandonato perché appunto era un progetto della maggioranza precedente e bisognava dare un segno di discontinuità. Poi è stato recuperato e di nuovo riabbandonato dal Conte 2, creando una straordinaria incertezza, soprattutto nella fase di completamento del 4.0, perché bisognava fare la fase 2, quella che riguardava le piccole e medie imprese, perché le grandi sul 4.0 hanno già fatto tutto quello che dovevano cos'era. Fare. Il governo Renzi e il ministro Calenda idearono degli iperammortamenti e superammortamenti al 120% e al 250%, al 140% e al 250%, che avevano il vantaggio che se tu spendevi in digitalizzazione andavi subito in iper superammortamento, non c'era un passaggio burocratico sostanzialmente, andavi a scaricare, e poi lo scaricavi esattamente come dicono nelle imprese. E questo mi sembra tra l'altro un passaggio obbligato, Alberto, perché proprio il recovery plan nei tre pilastri, uno di questi si chiama digitalizzazione, quindi sembrerebbe strano non utilizzare quelle risorse su questo. Vorrei invece ascoltare adesso, far ascoltare e poi il tuo ultimo commento, i passaggi del Presidente del Consiglio Conte, non tanto quelli, diciamo, ho già dato le reazioni politiche e ha detto il Premier Conte su questo che le riforme, la riforma della pubblica amministrazione sarà per una pubblica amministrazione semplice e vi saranno norme nelle riforme favorevoli alle imprese, ma quando ha rivendicato sostanzialmente il fatto che la tutela delle imprese non possa prescindere dalla salute e che la gestione, chiaro che è una rivendicazione anche politica, del Covid da parte del governo ha ottenuto questo effetto. Sono ormai settimane che tutte le istituzioni internazionali più accreditate, a partire dall'OMS, le più autorevoli testate giornalistiche, New York Times, Financial Times, Bloomberg, Guardian, Süddeutsche Zeitung e tante altre, si stanno interrogando sulle ragioni per cui un paese che negli ultimi lustri ha mostrato non poche difficoltà nella crescita economica, nel migliorare gli indici di produttività, che ha mostrato anche capacità nell'operare riforme strutturali che quasi tutto il mondo ci sta chiedendo, si sta invece rivelando proprio adesso, nel momento di estrema difficoltà, più efficace di molti altri, ben più resiliente nel reagire alla pandemia. E immagino molti di voi avrete delle risposte, e sicuramente non c'è una sola risposta. Io ve ne offro una. Io ritengo che il nostro merito è di aver compreso da subito che non si può vincere una battaglia così impegnativa operando distinzioni tra tutela della salute e della vita dei cittadini da un lato, tutela dell'economia e della produzione dall'altra. E appunto poi Conte ha rivendicato che questa è stata, diciamo, l'intuizione: non si può tutelare l'economia senza tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini. Ora però la fase, speriamo, è diversa da marzo e aprile. Alberto Rioli, per concludere, la sensazione che ho avuto io è che il governo, visto che si avvicina la scadenza del 15 ottobre, non solo non si possa permettere, non ci sono elezioni a breve, per cui, ma di avere il mondo delle imprese diciamo confliggente, ma cerchi anche, se vuole chiudere questa partita, di averlo dalla sua parte quanto a indicazioni. Poi Bonomi ha anche annunciato che al termine dell'intera assemblea avrebbe consegnato la seconda parte del libro sulle proposte di Confindustria. Alberto. Beh sì, indubbiamente c'è in controluce un'alleanza strategica sulle cose da fare nel lungo periodo per gestire al meglio il recovery plan, naturalmente, questa pioggia di fondi europei che arriveranno, che non devono essere sprecati, che devono trovare delle collocazioni per essere investite al meglio, investite. E se c'è una cosa che il nostro paese deve imparare è per l'appunto a pianificare e programmare gli investimenti, cosa in cui non siamo effettivamente un'eccellenza. Ecco, di questo con te parleremo, perché non voglio anticipare nulla, ma tu hai scritto un libro proprio sulle proposte per il recovery, e così te l'ho anticipato, ma non l'ho spoilerato. Però c'è un passaggio su cui vorrei chiudere di Conte, in cui sostanzialmente il Presidente del Consiglio ha anticipato che la cabina di regia del recovery non sarà lasciata alle regioni, perché c'era un passaggio critico anche di Bonomi su come le regioni non sanno spendere al sud soprattutto questi soldi, e avrà una legislazione ad hoc. Mi sembra un passaggio molto importante questo. Sì, ci sarà una specie di cabina di regia, chiamiamola così con un termine diciamo da Prima Repubblica, ma con modalità di controllo e di verifica dell'attuazione del cronoprogramma molto stringenti, come peraltro ci chiede l'Europa, che ha già fatto i moduli con cui i governi, certo, devono mettere in campo questo tipo di organizzazioni, di authority, chiamiamole così, che avranno il compito poi di verificare, gestire, implementare, spingere gli investimenti che via via vengano decisi dai vari governi, così come vengono indicati nelle priorità dell'Europa, naturalmente. Allora, grazie anche ad Alberto Rioli. È tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Noi ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Per le aziende e professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it.